comunque, vabbè, forse una persona che è bravo, che ce ne intende. Sì, ma praticamente il microfono originale c'è bene, non è che c'è, male, è bello composto. E qua si, non sai cosa si rovina, attaccando i microfoni amplificati, li rovina l'ambulatore, li fa partire l'ambulatore. Grazie a me, perché al mio, per Dio, non lo penso sempre più amplificati, ma questo originale suo, ogni tanto cambio, capito? Non faccio mai in pizza. Io già ce l'ho originale, ancora dentro il nylon, è nuovo nuovo. Ok, perché poi esce anche, bene questo qua, normale? Sì, sì, esce bene, vero? Benissimo, e il mio non è un microfono dell'apparato, mica amplificato. Questo. Però esce perché la radio è amplificata, ha tutto dall'apparecchio, quindi cosa abbiamo che fare? Microfono amplificato, queste vanno già bene così. Già lo so, no, questa è sciaccata che è una cannonata. Ma che gain ce l'avevo a 7, adesso lo metto al massimo. 1, 2, 3, provo l'innovazione, adesso è il massimo. Così, già, 1, 2, 3, prova. Se no esce troppo più impastato. Invece, come lo vedo a lontane appena appena, esce sempre. E capa. E beh, tu, copiato hai? Copiato? No, sei il 24 copiato hai? Un po', sì. E poi ha giocato un paio di tiri con la pistola, da. Un po' guaretto di baccano e basta, ma capodanno facciamo meglio, va. Attenzione che a capodanno si può sparare, l'avevo già detto. Infatti, non ho sparato, no. A Natale, la guerra, a capodanno peggio. Ma se non te ne pigia la pizza o baracchino? Va bene, ok. E beh, tu ti vedi da Cecilia? Sì, sì, grazie a Dio, sì, ho cantato, ok. Il problema è che abbiamo mangiato troppo, e tu la notte sono riuscito a dormire, avevo una pesantezza di stomaco, 10 anni. Io sono andato troppo bene, perché sapevo già cosa c'era da mangiare, un pezzo di una cosa, un pezzo dell'altra, poco a poco, porcetto, l'avevo fatto due di porcetto, la vita spalle piene, basta cara. Io ho leggermente di alternata, o già? Pure no. Non so cosa dire, perché qua... Perché la fanno anche... Ma sarà la ventola. Siete... Già, tu, Arturo, sì. È la ventola dell'alimentatore. È vicino. E a fianco la parete. E vabbè. Adesso vediamo. Ha fatto troppo di ragazzoni. Sì, un po' si sentiva un po'. Ma però all'inizio con rumore non ce l'avevi, diciamo. Forse quando scava un po'. Guarda adesso si sente, Prova, adesso sono portante. Sì, si sente. Ma che ho rimettuto il suo usato? Ato, non ti ho compreso nulla. Non è capo che il suo ecco, non ci compreso un piccolo. Ho detto che alimentatore stava usando. 50 ampere, di base. Sì, non dovrò dovrebbe dare problemi. L'alimentatore dice di quelli non switch, ma di quelli diciamo più professionali. Non lo so. E ne ho due, uno di 5 operato 30 e quello di 10. L'ho regolato col tester, il clima che c'è, perfetto. 13,8. Ma poi quello dei cinesi? Sì, ma non l'hai usato qua però. Ma tu te l'hai preso quello dei cinesi? K, ne ho due. Uno del 30A e l'altro 25. A me è un amico mi ha detto che l'ha preso uno da 50 e va benissimo. Il mio da 30, è bomba. L'avevo uscita. Perché troppo alti, capito? Io ho messo il tetto, i puntali, quando sono arrivato a 13,8, scarso, ok, perfetto, sono stato così. 13,8 va già a te, perché come un produttore fa uscire? No, volevo mettere 25, capito? Io infatti quando l'ho attaccato, ho detto, è pita, adesso che ha fatto. Avanti. Capa, ce l'ho anche io, ce l'ho. Va che la va, alla grande va, non ha nessun tipo di problema, costa poco, funziona bene, adesso sto usando, vabbè, sto usando uno da 5 ampere perché non c'è bisogno, no? Non sto spingendo, capito? E quindi, certo, ma quello che ho funziona benissimo, funziona. Cioè, va bene. Che bisogna fare quegli attacchi, non si sa quale quello positivo e negativo, se non c'è il test non lo fa. Ma chi non rubare di gare un positivo e negativo? Ciao lì, perché bella! Poi Luca, buonasera. Principetta? Chi l'ha detto? Ma che non rubi che è negativo e positivo? Ma non so di che colore sono, tu. Ma io la stai parlando, di là a me che sono un tecnico, dimmi, cosa stai parlando già? È positivo, è sempre rosso, è negativo, è nero. Ma di qua stai parlando già? Beh, l'alimentatore, quello dei CD. Allora, cosa vuoi sapere, dimmi? Aspetta, c'è scritto, certo che non si vede bene perché è stampato sulla lamiera, però se guardi bene c'è fase neutro e terra, e poi c'è negativo, negativo, negativo e poi tre positivi. Cosa ne bugia? C'è la 12 a sinistra e la 220 a destra. No, io ho 220 a sinistra e il 12 a destra. Io ce l'ho 220 a destra e la 12 a sinistra. I cavi entrano là dentro, io ho un bucato dietro, quando passa il cavo con la presa, tutto quanto, non si vede niente. No, no, io ho la borsettiera davanti, si vedono i fili e lo metto così, e poi, tanto, è dentro il mobile, non me la fastidio. E nemmeno non si vede niente, poi c'ho anche il tastino accende e spegni, come se fosse un alimentatore vero, là, solo gli strumenti ci mancano, poi ha due attacchi dietro, due cose di attacchi rosso e nero, ma lo sono fatto io, là. E per mettere il tasto non è che comporti più di tanto, un interruttore, basta interrompere la fase e si è a posto. Vabbè, ma io lo spengo, se accertato lo spengo, perché devo staccare la presa, come stai dicendo tu? Hai giocato tu, hai giocato prima? Io non so niente, ho detto, soltanto ho specificato i colori dei cavi perché Antonio non lo sapeva. Io non lo so, Gianni non lo sapeva, non io, a Bufonelli dice che io non lo sappia. L'unica cosa è bucare levando la scheda proprio, il circuitino che c'è dentro, levarlo, se no fai danno. Perché io ho bucato un condensatore, quello grosso, ma ormai c'avevo dall'altro quello che mi dava problemi e l'ho messo qua di nuovo. E ha ripreso a funzionare. No, guarda che io lo so, io lo so perfettamente come funziona a me. Stavo spiegando a Gianni, non a me, perché io l'impianto me l'ho fatto tutto da solo. Io non ce l'ho, non posso sapere. Siccome è stampato sulla lamiera adesso, mentre l'altro che c'ho da 30 ampere invece si vede perché è scritto in nero, capito? Non li ho mai visti questi alimentatori. Guarda, se faccio la foto te la mando. Non li ho mai visti dai cinesi, io ho girato i cinesi, non li ho mai visti. E in fondo sono, dove sono le lampade, quella zona lì, a sulla sinistra. Se tu vai, diciamo, da muraglia, vai in fondo, dove sono a appena entri a sinistra e vai giù dove c'ho le lampadine e poi dietro lo scaffale c'ho il fermentatore. Ciao ragazzi. Luca, beh Luca, dove è andata? Buonasera a tutti. Buonasera. Danilo da questa parte. Ciao Danilo, buonasera. Ciao Danilo. Sì, ciao a tutti. Dov'è questo muraglia cinese che non ha giù compreso ancora? A fianco a Usciano. Mica ti ho mandato la scatola, mi già. E lui ti ho mandato, com'è? Ma dopo te lo guardi con tranquillità. Buonasera Danilo. Sì, buonasera. Dove? A fianco a Cisalfa, quello che c'è attaccato a Cisalfa, quello lì. K. Ah, faccio capito chi è. Già, io te l'ho mandato sia quello da 30 ampere che 25. Ma funzionano bene, alternata, roba così non me ne dà. No, niente. È buono, ottimo. E quelli sono quelli che piazzano i computer, non è che siano, sono interni, però l'unico problema è quello che vanno costruiti. Però dovrebbero andare bene. No, per quello che costa lo dai, io sono piazzata. Una volta si sente o no? Ma non ti credono. Lui funziona, è una meraviglia, mi porta bene l'amplificatore. Non rubo oggi, no. Ehi, vabbè, certo un fatto. Prova con il 37 un fatto. Vai che non ribaldi nulla. Buonasera. Buonasera. Tanti auguri Gianni, anche non li ho già fatti. Grazie altrettanto, sì, auguri anche a te, dai, a Tom. Io ti domani a compito, ma c'è. Sì, sì, beh. Vabbè, io credo di aver compracambiato, adesso lo sto accendendo, ma ho la connessione che mi dice sempre uffa. Come mai? Che cazzo è adesso? Se basta che usi per dire un 4 ore poi cade, poi riprende. E vabbè qua. Zona QTH campagnola così, Ma che là c'è il vola? No, team, però me lo danno per, mi sembra, 7 mega, ma me ne arrivano 5. Gli effettivi sono sempre 4, insomma. Si perdono in cammino, eh? Non accendiamo, no. Vabbè, chi c'è, chi c'è? Ciao, io Antonio, Antonino Kamasaki, Ah, è Danilo, scusa. Va bene, ciao Danilo, ciao Tonino, ciao Antonio, sono il Maggio, che c'è anche. E tu, riprendi Tonino. Scappa, ciao di nuovo. Mi ha avuto già fatto poco fa. Va bene, Danilo, da che zona? Sotto Sant'Orsola Nord. Tino, abbassa un pochino il tono della voce, mi sembra indisogito. Fai paccato i timpani. Ciao Dani, vabbè, è la mia timbrica, la radio l'ho abbassata, ma purtroppo è così. Purtroppo anche. No, come potente è bella, bella chiara, bella forte. Perché sento gli altri troppo bassi. Non penso che senti a me basso. No, a te ti sento bello forte lo stesso, però c'hai troppo eco. Danilo, e adesso come mi senti? Se sei sceso un pochino, non va bene. Mi piaceva più l'uscita che avevi prima, che mi riempivi tutti quanto la scala. Guarda che sono Tonino io, ho detto come mi senti adesso? Poco fa mi riempivi quasi tutta la scala, stavo dicendo. No, sempre bello forte come voce, come radio è bella perfetta. Faccio sì, a livello di Tino. Infatti molta volta che entro, saluta, vi dico ciao a tutti, ciao Tino, mi dico. Tino, la voce mi ha rubato. Scusa Tony, sono via bassa, riprendo dopo, sono al telefono. Ok, avanti già. No, la faccia è più bassa, quella di Tino più medio alto. Per qua è più corposa, più diciamo, hai molti bassi. Dipende dalla voce timbrica nostra, capito già? No, se non sono uguali, c'è la differenza. No, io ho detto, quando entro così, in picchiata di colpo, ciao a tutti e buonasera, smischiare lo piattino come prima chitto. Perché è simile, ma no, non uguale, è simile. Ma chittino c'è una voce grossa, va bene, corto c'è il Claudio, il Dino, ce ne c'è un po' più una voce grossa. Ma da una parte è bene perché ti dà anche l'amplificazione ottima. Sì, sì, sì, quello sì. Però vabbè, il microfono è ottimo. Che microfono stai usando? L'MC20? Anche io? Sì. No, un Tarle Super Siderica. Anche tu quando vai a dare il PTT si sente il rumore del barattolo vuoto. Tipo blu, e dopo poi si sente la voce quando schiacci il PTT. Sono microfoni molto sensibili, capito? Diciamo che questa è la perla nera del Tarle P3. No, la voce, la tonalità che hai si assomiglia a quella di Claudio soprattutto. A quella di Claudio si assomiglia un bel po' la tonalità. Bella forte. No, ma già mi sento anch'io in cuffia, quindi già va bene. Se alzo poi innesca. Vedi, aumenta però entra innesco, mi dà fastidio. Invece se ha le cuffie. Ho le cuffie, ma penso lo stesso, perché il microfono non è che sia molto riscante, capito? Ci avranno 40 centimetri. C'è quello che ti fa innescare, ma se te lo direi... Avanti, Danilo. Sì. Niente. Comunque, auguri a voi, che non ve l'ho fatto stamattina, gli auguri. Che stamattina sono entrato, c'era Claudio, Luca, poi... Antonio e l'altro non me lo ricordo chi era. Io trovo adesso gli auguri, Dani, a te, al cuore, a famiglia di buon Natale. Auguri anche a te. Sì, grazie. Niente, sono entrato stamattina, mi sono fatto un giretto, ho visto che non c'era nessuno in HF e ho visto che c'erano loro al canale 10. E mi sono fatto una chiacchieratina, hanno detto che si facevano sentire stasera, invece non si è fatto sentire nessuno ancora. Appa, contraccambiati anche da parte mia, Nilo. Sì, sì, grazie. Che segnale mi dai? Tu stai usando un apparecchio Sirio, no? Se vai lo spizzo che funziona molto bene. Che segnale mi dai lì a ottavo, a Santoso, dove sì? 9.20, a volte dai picchi di 9.30. Luca mi ha mandato il suo alimentatore con il pazzino di on-off. Ha fatto un bel lavoro, che gliel'ha fatto sotto. Ah, ecco. E adesso come mi senti, Danilo? Guarda questo passaggio, come mi stai ascoltando di segnale. Il segnale 9.40 sei salito, radio sempre 5, bella perfetta e bella forte. K, magari io sono sempre 9.20 così, via Sant'Orsola. Sì, sempre fisso 9.20, però ogni tanto dai qualche picco da 30, quello che mi arriva più a fondo scala è Tino, vabbè che ce l'ho dietro. A me mi è partito il gas, ma sappiamo andando bene. Cioè, cosa c'ha? Esce con un fischio. Esce con un fischio e tu si fischia, ecco, lo so come va. Fischi con l'eco fischiato, una navetta, e rumori strani. L'ha fatto l'altro giorno, poi ho parlato tutta la notte, non me l'ha più fatto, devo piacere stasera e bene di fatto. Ah, peccato. Perché è una bella radio, mi sono davanti agli occhi anche io, l'ho sempre la mia. È una bella radio, ma che si fa aggiustare, non è che si vede chissà che cosa. C'era qualche componente in ferro, sta basta cambiare. Ah, quello sì. Basta sistemarlo e basta. Dopo si rimette in sesto da solo. Lo sto usando anch'io, le Galaxy. Speriamo che lo faccia a me. Infatti a Gianni gli ruba la radio. E se Radio 1 con questo fisco lo copre. Che c'ha a vedere? Yuhu! Ciucca, ciucca! Prova in di gioco a vedere. A vedere come arriva a Sant'Orsola. Gli arrivi bene, gli arrivi bene. E beh, musical, non è attaccato. Oh, oggi no, oggi lo mandiamo a capodanno. E io, Dani, come ti arrivo? 9.30. in radio bella forte. Beh, va bene, allora dai. Aspetta che stai usando il Galaxy, giusto? Scappa. Cosa ci hai messo dentro per arrivare così tanto bello pulito e potente? Niente, solo un liscio, ho un microfono, te l'ho detto, che la perla nera del Turner più 3 si dedica, super si dedica a Turner, quindi è quello nero. Bello, ce l'ho avuto anche io anni fa, però ci ho avuto il Turner più 3B e spingeva come una mala sorte, spingeva. Io so che si sposa bene col Galaxy questo qua. Anche col DAC. Col coso, col Superstar, è una cosa micidiale. Scusate che avevo abbasso, ho dovuto abbassare il volume, quindi ho perso il filo del discorso. Stavo parlando più o meno dei microfoni, cosa che ho fatto io per riuscire così bene. Il microfono che è buono, io ho la tonalità grossa di voce, quindi. Ah beh, ma va bene, è ben logico. Ma tempo fa ci avevamo, poco usciva forte quel tipo di microfono. L'ho attaccato sul Superstar, il suo grigio mio. Ma tu Tony cosa stai utilizzando? Il P5? No, no, io ho il Turner su Sidirica, quello nero. Ah, ho capito, sì. Lo conosco, lo conosco. È un buon microfono. Oh, Danilo. Sì, dimmi. Io non abito a Sassari, sono fuori. Dove esattamente? San Camillo. Di russo, dimmi come ti arrivo io invece lì. Tu così, 9.25. Radio? Ultima, 5. Perfetto, grazie. È una curiosità che volevo sapere, perché avevo sollevato l'antenna e volevo sapere le uscite in più che avevo. Capo. No, io dopo che mi faccio l'operazione nel disco mi sollevo l'antenna da 10 metri, ce l'ho 6 metri, ma adesso non ce la faccio, troppo infame la schiena, quindi altri 4 metri ce la piazza sotto e buonanotte. I dolori di schiena sono bei brutti, reazione, mi sto soffrendo un bel, a volte non riesco a fare proprio niente, proprio zero. Ma hai l'aria del disco? No, dolori alla schiena solo. Allora non lo so. Io ho preso appuntamento, devo andare a operarmi a Ravenna, vicino a Ravenna. In Sardegna non mi opero, a chi mi rovineggiare. A parte noi, dai, vado a mettere la legna nella stufa. Dai, bianco per me, dai. Ma ora pranzo, dai, ce la risentiamo. Ciao. Ora pranzo. Gianni. Non ti dirò la verità che stai preparando la rosa. Hai detto un pranzo? Sì, pranzo. Adesso sono abituato perché Marco c'era a quest'ora, capito? Quindi così dice che fa il pranzo. E adesso chiamano pranzo anche la cena. E tu presto le 7. No, mi sono fatto rubare il minestrone perché avevo le piene di carne, pasta al forno, pasta, mi ha giocato le piene, niente, mi sono fatto un bel minestrone di verdure e prenderò un bel piattozzolo e basta, è una mela, perfetto. Tanto è vero che adesso mi piace, riposato mi piace ancora di più, un filo di olio d'oliva, di quello, già lo conosci, già. Un filo di olio d'oliva sopra, crudo, cos'è quanto è buono? Io mi sono fatto il pesce, mi sono fatto... A me mi piace, mi sa me lo faccio questi giorni, una bella orata in forno. Ce ne sono tanti. Io quelle di allevamento greco... No, che io vado a prodotto così, una peschericcio, un amico mio, e me la faccio la morata, un chilo e mezzo, perché quelle piccole troppo aspira non mi piace. No, quelle di allevamento non le compro mai. Ma non ne hanno neanche il sapore, invece quelle a mare aperto, che si vanno a pescare a mare aperto, sono più saporite. Cappa, io le pescavo prima. A Vapica e Gambe Grandardo, c'ho 6 anni che sto dolore di l'ernia, mi sono deciso da lavare, ma con il mio pareggio che... C'è una fotografia con una di tutti No, io al massimo l'ho preso un chilo e mezzo, e buh, e una che l'ho persa era enorme, non so quanto pesava perché non lo so, non entrava nel corpo, c'era mio fratello, c'era mio compare e mio compare me l'ha fatta perdere, ha alzato la lente, se la guardava, molla, nuda, è rimasto il pallone guardandosi l'orata, appiccata e poi da conto un maggio di strattone si è fuggita. Bisogna sapere coppare. A me mi è scappato a Trattamone, ce l'ha due già poi si è arrivata la battiglia, lì c'era comunque. Ce l'ha due già la battiglia come tirava, sono stato quasi mezz'ora a tirare. È arrivata la battiglia, l'ho alzata per un buttarsi col muso come si fanno, si vedeva a pelo d'acqua, la grandezza dell'orato. Passano questi qua raccogliendo punti e fa, oh com'è bella, pa! Mi ha spaccato la testa. Tanti bucciucci. La mia era grande, come lo scudo con lo zip della moto. Tanto è vero che mio fratello ha detto, io ce l'avevo qui tuo moglie a tuo compare. Ma quando mai c'era anche Pino Fortebraccio con la moglie, me lo ricordo ancora. Anche Pino dice cazzo di ignoranda. E vabbè, comunque sono uno sportivo, quindi non me ne frega niente, pazienza. Oh, la voce è fuggita che sorata, non c'è più peccato, zero. Ti è mai capitato di pescare le orate, quelle che nelle guance hanno le macchie rosse? Perché se ti come vede il corpo tira e spacca più. Vuole presa da dietro, messo da sotto, prima nell'acqua, poi tu, o gliela porti tu dentro il corpo con la canna. Oppure se è troppo grossa vuole pesare. In tutti i modi abbiamo cercato, niente, la facevo andare, tornare, l'ho stancata proprio, un bel po' sono stato. Mio compare cosa ha fatto? Quando era sotto ha preso una lenza a mano, l'ha sollevata e se la guardava, si è bloccato così, capito? Tutti dicevano che Pino forte il braccio, dice mollala, mi fa detto io, nulla. E tu sei cantando, ha avuto lui cazzone, a cazzatutto se n'è andata. A me me l'ha fatta anche un'altra volta lì a volontà. Ho messo le canne, ho preso delle cose, mi avevo fatto con la schetta che usano i bianchino. Prendevo il coppe da scavo, le cose dal bordo del mondo. Ne avevo preso 3 o 4, gli ho subito messo delle canne, ne avevo 3 di canne, ho messo i segnalini e sono andato a prendere le altre. Cazzo, come ti fai da lontano, gli dico, cazzo, la pistola in faccia. Sono andato, ho fatto il tempo e tempo, tu gli ho messo il piede della canna e si è formata una specie di parrucca alla fine con la rete. Ah, ha spaccato tutto. Io questa parrucca mi ricordo questo tipo che veniva a pescare con noi e si è messo in questo modello piccolo ma piccolino a tutti i 100 metri di lenza. Come ha fatto non lo so, io ero con Turbaio, un carabiniere e poi ero con Risicato, il maresciallo, siamo andati a pescare quando lavoravo all'ospedale della Lavoro e Gianni Porco con questo lusciere, questa cannetta, ha avuto il traccio, ha fatto una parrucca gigante e l'esca era sempre vicino a lui, tutto lui indica. E invece che ne ha messo troppa di lenza di città pubblico, avanti a chi tocca, da lì per chiudere la testa. Sì, ti stavo dicendo, perché non mi sono voluto interrompervi. Le orate quelle con le guance che hanno la macchia rossa, ne avete mai visto di quelle? A voglia, le ho prese a... Sono così, hanno la parte gialla di sopra e ai fianchi delle branche sono rosa, non rosso, rosa. Cappa, sul naso c'è la curva, è dorata. No, proprio rosso, non rosa, rosso. Non mi ricordo che anno era, mi sa che era 2003, perché avevo appena la patente, 2003. E andiamo al molo industriale con questi amici a pescare al primo mattino a cozze, come stavi dicendo tu, il raschietto e balle varie, lanciamo, niente, non stava mangiando, tutto un tratto incomincia a mangiare questi orati giganti così. Sono riuscito a agganciarla con la bolognese, tu non ti puoi immaginare come mi ha piegato la bolognese. E con la scappina ce l'hai fatta tirare la e dopo un bel po' sono riuscito a tirare, a portarla a terra, alla battigia. gli hanno sceso il colpo, gli ha tirato il colpo a testa, si è incazzata, ha strappato tutto. Sai cosa vuol dire strappare un'orata? Mangiartene le mani, a prendere il tipo e buttarla in acqua. Perché sono cazzate che non si fanno quelle lecce che possono fare. L'orata bisogna... E dirò a Franco... A Franco come si chiama? Franco Califugio. Era lui, e gliel'ho compatta una grossa io. Ma al primo colpo gliel'ho compatta e porta qua su. Oh, poi di altri pesci, sì, identici, ricciole, tonni, quelli lì già ne ha agganciato, a voglia. E paramite, appena preso vieni. Aspetta, non ti ho sentito che c'è mia figlia che sta gridando, dimmi. Palamite, preso vieni. Sì, palamite ha agganciato una e subito persa, proprio ha sganciato sull'artificiale. Quella è bocca da mezz'acqua, Sì, con lo sniper, l'artificiale. Agganciata e slamata subito. Via, ho detto già che vi siete parlati in due. Ho detto, state parlando di pesca con la barca o di pesca da terra? Ma mi sembra che da terra il palamite si dipinga. Io non ne ho mai preso, ho preso sugarelle, ma palamite no. Palamite è un tipo da forma, già lo sai. Da terra, dall'alto affondare, però torce al porto. Ah, ecco, se tu ti dici l'alto affondare, magari. Avanti break, mi è sembrato un break. Vabbè, comunque, ai tempi di video me lo facevo la mia parte, adesso lo sto pegando, ho le canne che ogni anno le ingrasso, le faccio, ma non esco più usato. Sì, io c'ho due, avevo belle canne 4,50, ne avevo 4, tutte vendute tempo fa, avevo le balle piene. E mi sono pentito già. Avevo una Nike che era la fine del mondo, gialla, bella. Era la più fortunata con la canna. Niente, adesso due cannette, ma non ce la faccio. Niente, anche lì nel disco dolore, capito? Ho detto, quando poi, tanto l'altra no, sta arrivando, vado in pensione, a cosa andavo via di APK, sì. Dovevamo andare, dovevi fare la licenza, dovevi prendere la licenza, il permesso, e poi non è mai fatto. Cioè, con questi numeri che ho, forza di zimetri, entro lo mare. Puoi sedere, io pesco dalla riva, e puoi sedere nella sinietta come faccio io, mi siedo, come lancio, e metto gli starlight. Quello anch'io, con le canne da lancio, non è più, me le devo rifare. Ma io non è che abbia canne da lancio, tu, io ho canne da 3,5 metri, la più lunga sarà 4 litri. Però con quella piccolina da 3 metri ho pescato un'orata grossa. Là finirà l'inverno, chi ci ha piccato un'orata grossa? Però quando è salita era già mezzo morta, si è stancata un bel. No, ma in spiaggia è più bello perché non è come se in mezzo alle luci il corpo ti può scappare, lì si spaventa. In spiaggia arriva tranquilla, proprio liscia, liscia, liscia. Ho pescato morboroni, orate, razze lì. Io andavo l'ultimo pettine praticamente. Comunque già ci andiamo, già dai, non c'è problema, avanti Dani. Sì, anch'io preferisco molto la spiaggia dalle rocce, anche perché in spiaggia passa di tutto, ma c'è, non in cagli, in spiaggia è difficile che perdi, perché quando la agganci non sai come coparla, allora prendi te lo tiri in spiaggia, senza problemi. Basta aspettare che arrivi l'onda, la fai entrare insieme all'onda e vedrai che non si stacca. Perché se tocca a terra si può staccare. No, ma neanche, anche a mare piatto, proprio calmo. Sai cosa vuol dire mare calmo? Che non si muove un'onda. Proprio anche lì agganciati e portati fuori senza problemi, anche roba grossa. Anche mormoroni quelli giganti, come stava dicendo, di quelli lì belli grossi. Ne ho preso anch'io in abbondanza in spiaggia. E io uso l'americano, perché non ne abbiamo preso, ho preso il razzo, ho preso il mormoro, di quelle grosse. Ho preso razzo e agone, razzo e ho preso tantissimo. Però le razze solitamente le sono buttate in acqua, non sono contenti, perché sono di mezza taglia, non sono grosse, no, sono mini. Bisogna fare un po' più cimento, cucinare, non parlare di. E allora a volte lì. Comunque lì ho preso, perché c'è roccia e c'è voglia. Tu pensa che un anno abbiamo calato un parametro, abbiamo raccolto solamente le marine. No, io uso, a parte l'americano, anche il bibi, perché è orato, va fatto per il bibi. Sì, ma l'americano lo mangia lo stesso, l'orato, perché sanguigno lo mangia tutti i pesci. L'americano l'unica cosa che c'è è che se ci sono pesci piccoli te lo mangia. Però se tu poni di pesci grossi, come ti ricordo io, i pesci piccoli te li mangio. Io metto di quelli, quelli grossi, quelli faccio mettere la parte apposta, grossi, e li lascio la parte finale, te la lascio pure. E avete come ti ripetisci. Gianni, una bacchetta, al bagnasciuga, fa un fosso, metti la sardina e arrivano i granchietti. Lo sai che è buona la pesca l'orata? Sì, ce l'ho fatto una due volte. Prendo una canna, li leggo la sardina col filo elastico e le filo le lastre della battuta. Già lo so, e l'abbiamo fatto anche con Mario Masso, siamo andati. L'abbiamo fatto, abbiamo preso una settantina di granchi, infatti qui vedo liberati gli altri, c'è gente che si porta a casa. Ah, ce l'erano a gogo, ce l'erano, la sentivo qui, vedi, pieno. Cappa, no, già è bello, dai, ti rilassa, non è pescare. E io sto per il sono già un casino di tempo, non so cazzo, mi riunisco qua. Comunque parte insieme a mio figliuccio mio, già, Emanuele. Ci va lui a pescare? No, parte insieme a me, che lui si deve operare lì nel disco. Sì, sì, lo so. Comunque, niente. Speriamo che adesso come fare un'operazione di questo pesce. Non ci vuole poter farlo. Da voi, il piano piano, anche io disperato, riuscivo a mandare anche la gamba intera. A me mi ha detto, la mattina ti opero, il 18 c'ho l'intervento io. Io ho fatto il 13, ho fatto un po' prima. Mi ha detto, la mattina ti opero, la sera ti divento. Quindi il muso, per i punti, eccetera, il taglietto piccolino mi ha detto. Mentre Emanuele qualche giorno in più perché gli mette due stabilizzature per fare che non so come è messo lui la schiena, lui. E niente, rimango qualche giorno in più, aspetto lui e poi partiamo insieme. Sì, ma intanto poi me ne sto in malattia, me non mi sento, ma lo faccio. E poi riferirà a fare la dipensione già, a voglia, ma agosto non ci sono più. E a Traina non ci siete mai andati? Dove? A fare Traina. No, io no. Traina no, ma volentinare in barca con più di dame tutti lo sci. A prendere pittone con la canna elettrica, a prendere 20 kg di pittone senza scartare i due. Però ci avevamo il posto segnato, la verità è questa. No, la Traina un bel po' di roba ce l'ho presa, anche di quelle occhiate giganti, di quelle blu fondale marino. E poi ricciole, lecce, dentici, ho agganciato un tonno, un altro po' che mi serrega pure a me. Ma ricciole piccoline? La più grande è 4,5 kg. Più grandi di quella non ne ho preso ancora ricciole, con la guglia viva sempre. E le ricciole sono anche da roba di 40 kg che ti si buttano. No, quelli lì sono treni. No, la lecce ho preso bella, bella grossa, 13 kg. E poi un dentice da 8 kg. Poi c'è la cernia che è più grande ancora. Infatti dicono, se vedi una pietra che sembra un pesce, è una cernia, sparatela. No, lo stesso la cernia, non giganti, piccoline sempre. Però io preferisco molto di più la Traina e la pesca da spiaggia. Oh, no, gli altri tipi è calamari. A calamari ci vado matto. Solo che quest'anno zero. E quelli sono gli unici tipi di pesca che mi piacciono. Vediamo poi gli altri, no, non tanto. Ci vado, però no, non ci vado matto. Quindi da spiaggia tu non lo fai? Sì, faccio. Mi piace molto di più la Traina, la spiaggia e andare a pescare i calamari. Capito. Non andò bene. Andavate già. Calamari è un posto, più micidiale a Porto Antonio. Quando che vai sotto la chiesa di Balai vicino, lì dove c'è il faro, e c'è cantone piccolo. Ci andava a lavorare il mio cognato lì già. E andavo anch'io. Poi mi è passato questo perché è troppo freddo, devi stare al freddo, capito? Anche se c'è la tuta, ti prende al naso, la sedosità di me. Mi sono avuto. Un gatto mi ha preso il calamaro. Cazzo, ma ne pigliamo grande, mi menti. E la piscina della iata. E già la c'è più domani. No, io il calamaro più grosso che ho preso, 1,2 kg. 1,2 kg a lenza, a mano. Ma ti dico solo che era una roccia tirata, sembrava incagliata. Siccome io ho il palmo della mano da 20 di apertura, ce l'ho bella grossa la mano. E le ali che c'ha dietro, il calamaro, mi coprivano la mano e me ne scendevano anche dai lati. Mi siete sopramodulati. Ti ripeto tutto io. Sì, perché è passato male. Allora, ti stavo dicendo, di calamari ne ho pescato uno da 1,2 kg. Siccome io ho la mano un po' grande, non è gigante la mia mano, è grande, e ho il palmo da 20, da pollice a mignolo. E questo calamaro che ho preso, le ali di dietro oltrepassavano le dita della mia mano, sia di pollice che di mignolo, da quanto era grande. Cappa. Sì, ma ci sono andato perché sì, c'è freddo. No. Ha ragione Gianni perché non sono da mio cognato, però lui resisteva. No, un giorno sono andato proprio al molo industriale quando si poteva ancora andare, un paio d'anni fa. Proprio non c'era un'anima dal freddo che c'era. Ero da solo. Ho incominciato a pescare, primo calamaro, secondo calamaro, alla fine sono arrivato a 23 calamari, da solo, non vedo nessuno, un'anima, è una seppia, poi non vedo niente. Freddo, non te ne dico perché ero tutto quanto coperto, avevo anche i guanti da quanto freddo c'era. Vabbè che io il freddo non è che lo soffro molto, però. Ecco, forse il calamaro si pesca quando c'è freddo, la mazza gli fare il proietto, avanti già. E io ero più specializzato in sci, quindi chiedi la slide. Abbiamo preso anche 12, 70, e poi hanno scoperto il posto, fortunatamente anche dalla Soporneo, però dopo anni non si sono mai andato, e poi non ho fatto la lata, la Soporneo, non ho fatto la Allora Gianni, l'orata è un pesce di acqua pulita, entra, mangia e se ne va via, capito? Io l'orata so dove le ho prese grandi. Allora, non lo asi, appena entri, giro a sinistra, vado in fondo, fondo, in fondo, oppure giro a destra, dove costruiscono le barche, io andavo là. Adesso non si può più andare da molti anni. In poche parole vai dove ci sono i tubi, dove passa il grigio delle petroliere. No, quelli ce l'avevo molto dietro, ce l'avevo. C'è una specie di moletto piccolino. Sì, rimane prima quello lì. Cioè in poche parole tu stai dicendo dove c'erano quelle barche affondate. Sì, là già. Dicevi Dani? Ti stavo dicendo, tu mi stai dicendo in poche parole lì giù dove c'erano le barche affondate. No, costruiscono le barche lì. Poi vai avanti, allora dove scendo per andare alla Tirrenia? La mattina c'era il custode che veniva a avvisarci, guardate che devo chiudere il cancello, lo riapro alle 7 di mattina, sì vabbè, tanto siamo tutta la notte a pescare. E ci veniva a avvisare sempre, andavo io in punta e in punta proprio. Non a parte si è messo questa avventura che non avevo mai pescato, allora c'è un bilancio e l'ha pigliato un brocco di 4 punti, a capo mi fa via. Sì, in effetti c'era il custode là, anche a noi qualche volta ci ha avvisato, e tu non ci preoccupi, se dovevi andare via, già sotto il cancelletto, non c'è problema. Sì, comunque era un punto veramente bello là già. Sì, io prendevo un bel impaccino grossi, un abbazzino che pigliavo, ma di quelli da affondare, tutto di belli grandi. Pescava bene, però c'era troppo odore, si pigliava la gola. Qualche volta quando c'era il vento contrario, sì, però c'era il muro alto e quindi era un basso. Faceva tipo a L, vai, ma almeno col punto lì. Peccato, vabbè. Comunque, in dispiaggia pure ho avuto una grande soddisfazione, dai. Io buttavo sempre tre canne, poi mi rompeva le balle solo due. Troppo faticoso, tre canne a gestire, raga. Io ne metto sempre due, con tutta di mano, perché ci va qualche problema, vabbè che c'ha il pezzo di carne che c'è di loro. Io mi porto tutto, infatti è pesante, mi sa sempre che non si può vedere mai. C'è anche gente che ce ne porta 13, 15, a volte anche 20 cani da pesca. Poi ancora non ho capito come fa a gestircele una dietro l'altra. Ah, troppo, con due vado troppo bene. Io mi portavo anche la sedilina, la borsa frigo, mi musavo, maniavo, aiuto. Vabbè, così si fa, sì. Due a testa. Vabbè, così si fa, sì, no? Per me c'è due a testa e basta. Se siamo scesi una volta lì al Lido, ci stavamo mettendo, c'erano questi due vicini, dice, ma lì ci dobbiamo mettere lui, ci dobbiamo mettere a te, ma bisogna voi a noi, cioè, io me ne esco per far mettere a te, perché c'è la spiaggia, va? E la prima briga. A me fate le dica niente. Io quando arrivavo non c'è nessuno, mi mettevo al posto che volevo io, quindi. Ma niente, non mi dia, o si andava a Beatrice o a sinistra, e da lì non mi muovevo più. Adesso te lo spiego perché, perché dove mi metto io c'è un punto solo, dove non incagli, perché lì c'è scoglio e sabbia, però lo scoglio è piatto dove mi metto io lancio, quando recupero non si incaglia mai, invece dalla, appena appena più avanti si incaglia, e pidi di tutto, pidi Sara, che pidi Pulpi, di tutto, anche non puoi fare già tanto, fatti un conto. Io praticamente sto parlando già dell'ultimo pettine, dove c'è lo parcheggio, perché c'è una macchina enorme, grande, c'è anche un bar a sinistra. Mi stai dicendo? Sì, il settimo pettine, no, io stavo parlando del Lido, dove c'è praticamente il presidio militare, ce l'ha presente? Scappa. Io ultimamente stavo andando lì e ho trovato un punto buono, poi hanno cominciato a calare parametri, questo e quell'altro, non bisogna più andare. Quella è Punta Bianca? Sì, il presidio militare, proprio è a fianco al presidio militare. Però, Gianni, sappi una cosa, che dalla torretta fino al terzo pettine c'è... sono gli scogli che è tutto una linea dritta dritta dritta fino al terzo pettine. Sì, si chiama l'autostrada, c'è un punto al settimo pettine che praticamente c'è la sabbia scavata e se tu riesci ad arrivare lì prendi sempre le orate, perché c'è il passaggio delle orate, c'è, la chiamano l'autostrada. Io al settimo pettine andavo proprio, prendevo la salita, poi scendevo in faccia al mare, io metto sempre lì e ho sempre pescato. Al settimo pettine si pesca, però c'è anche il fatto che scende la fogna lì, ho capito che scaricano col fiume, come si chiama, torrente, cosa sia, scaricano la fogna di sorso, se non quella roba lì. No, quello è più indietro già. Manda in mare in chimica, salto. Un bel distante, cavolo, prima della marina di sorso. Quello, se non sbaglio, è il sesto pettine dove sbocca il fiume a mare. Sì, e là prendono anche la riccia a Bigliani in Blu. E lì ce ne vanno molti, pescano i mucinetti lì davanti al fiume e dopo buttano a mare. Anche col mucine legato all'amo, col sughero e la lenza elastica. E vanno a pescare lì, c'è lì, serra. Cappa, devo essere anch'io pescando lì, ma non mi piace che sia un tipo di becca, poi. Era proprio lì vicino allo scarico del fiume, l'ho preso a benzina anche, non lì. E il paragon, ma è pescato la rete? Sì, anche quello lì, l'unico pesce che mi manca è la balena. Il paragon è rosa lì, allora di notte lo vedevo, facevo la pila. Il suo pesce mezzo un decio, mano, e che se pesce è? Gli ho tratto la fiuccia, l'ho mezzo distrutto, gà. Cade buono, ci buscava a casa, gli ho detto mamma fa culo, gà. Me non incazzatemi. Si è sentito qualcuno parlare? Detto, io posso la ragosta lì. Si possono pescare, perché se ti trovano, ai ai ai. Quelli sì. Pescare si possono. E c'è gente che se ne risposta, c'era questa cosa di caricarlo. Io invece la cosa l'ho preso alla barchiera e sono fatto pesce spada. In quattro tracce, più di due, si pesce spada, infatti alla pizzaiola erano fenomenali. E beh, brutto, auguri. Tu già sei esperto, tuo padre era pescatore, quindi ti avevi già... No, ma quest'anno non ci sto andando, sono già due anni da quando mi hanno avuto problemi al piede che avevo luce, adesso non più andare, solo mi entrava la sabbia. Sono due anni che non vado più, ma ci sono andato, a voglia che ci sono andato, andavo tutti i sabati, sabato notte facevo, fino alle 11, 11 e mezza, mezzanotte, dipende, andavo alle 8, alle prunine e poi andavo via, verso mezzanotte. Ma si sta ancora pescando? E cosa stanno pescando? Lì si pesca con la verità e con la... con cordella, americano, tutti questi. Io ho pescato sempre bene con l'americano e ho pescato tutto, razze, belle mormore, orate grosse, anche da 3 kg 8, ne ho preso una, c'ho la fotografia a casa, ma non me la faccio vedere. No, scusa Giavru, auguri. No, Gianni, dicono che anche la ridicola si pesca bene. Ehi, anche con la ridicola, ma non è per le mani mie, scusa. C'è appositamente un ago fino perché la ridicola è fino a fina e a me non mi piace. Io le cose fine non posso toccare perché ho le mani grosse, quindi non fa. Però con gli americani sì, la ridicola è molto buona, per la spiaggia poi la ridicola è ideale. E io il bibi uso con l'ago, anche l'americano. Sì, con la ridicola non ho mai pescato, per la verità, è un verme troppo fino che non mi piace. Col cordella ma è pescato, in primavera esce il cordello. No, io no. Danilo, ripetisci il parcheggio. No, mi sta facendo un giro sul cellulare, ma già vi sto ascoltando. Solo che uno di voi esce molto molto basso di voce. Sì, quello che è entrato adesso Bruno. Sì, sale di segnale 920, solo che lo sento molto basso di radio. Bruno, tu sei a 30. Io qua non ne ho niente. Nulla, proprio nemmeno. Detto che ti siete passi di radio, forse che fosse di volta a te. Penso che sia un po' di cedate. Ma sempre nel solito posto sì. Ecco, registra. No, io di giorno non ci vado mai, io vado all'imbrunire e sto sino 11 e mezzo, diciamo, insomma ne va. C'è un break, avanti break. K, buonasera. Un altro controllo per favore. Aspetta, sto uscendo? Stavo parlando. Ecco così di veloce col microfono, ragazzi. C'è un break a poco fa e volevo controllo, avanti. Sì, K, buonasera, volevo capire questa radio se sta uscendo bene. Troppo forte. Non è che capisco neanche con le cuffie. Troppo forte? K. Vuoi un po' in questo passaggio? Più o meno lo stesso, dai. Ok, ho abbassato ancora un pelo, eh. Adesso va bene. Ok, grazie mille. Comunque, dai. Saluto tutta la ruota, Massimiliano da questo. Ciao Massimiliano, presidente Antonio Cavasacchi. Avanti Gianni. Ehi, avanti. Ma vabbè, riparate voi un attimo. No, vabbè, io volevo giusto un controllo, già, se me lo puoi dare anche tu, veloce. Era un po' di tempo fermo questa radio, no? No, va bene, c'è anche il pinto, va benissimo. No, non ce ne grazie. Sta pagando. Sì, adesso è perfetta la serie. Cappa già, no, era un po' di tempo, dai, che non accendevo più, boh, forse 5-6 mesi, anche di più. Va bene, dai, era giusto per quello, per volevo capire anche se la batteria del microfono era a posto, quindi mi state dicendo che è tutto a posto, va? Va bene, ok, avanti Tonino, poi non so chi c'è ancora, eh. Ehi, Cappa, già mi sei spostato, questo Bruno che arriva un po' basso, infatti lo soprammuro, forse non lo senti, e poi c'è Danilo a Sant'Orsola, tutto qua. Ok, dai, va bene, saluto, no, non lo sento, boh, c'è forse qualcuno che parla, non lo sento, e saluto anche questo Danilo che forse non l'ho mai sentito. Bene, buon Massimiliano, alla grande, buonasera a tutti. E io, ok, ah, questo è quello là, da, il serpente. Bene, va, mancano un attimo, anche come andava prima. prima, fortissimo, va bene. Ok, andiamo avanti, Danilo. Sì, già ci siamo sentiti altre volte, Massimiliano. Magari no, non te lo ricordi. Comunque già ci siamo sentiti altre volte. No, anche qua già arrivi bello, bello forte di radio. Segnale 920 e radio bella perfetta, bella squillante. Comunque io adesso chiudo che devo fare roba, là. Già ci sentiamo un altro momento. Buonasera a tutti. Ciao Dani, stai bene, salutori. Alle prossime. Sì, ecco, già ci sentiamo. Mi stacco, ho attaccato questa giusto per vedere se andava bene. Ok, ciao Danilo, buona serata, buona continuazione, ciao anche a Gianni Doppio Room, si è chiuso, saluto anche a te Tonino, perché anch'io mi sto allontanando dalla radio, no? Se c'è Claudio, ci sentiamo dopo al limite, ok? Ti mando un messaggio. E tutti quelli che ascoltano, ciao, buona serata a tutti. Ehi, Massimiliano, d'accordo, saluto anche a Danilo, vai, ciao anche a Tonino, a Gianni, sono ancora X che sono impaginato, vai, ci sentiamo più tardi se ci siete, ciao a tutti. Ok, ciao Massimiliano, buon lunedì, ciao Claudio. E ciao Danilo, vai, sta mai anche con me, che vado un attimo in cucina. Alle prossime, ciao Massimiliano di nuovo e ciao Gianni se si ascolta. Eventuali ascoltoni, ciao ciao. Io sono qua ancora. E pensavo che c'è più nessuno. Tony, lascialo così tu con la regolazione che abbiamo fatto, che sei favoloso così con di te. Come, così? Sì, così, non lo toccare, non lo aumentare, lascialo così come l'abbiamo regolato l'altro giorno. Capo, allora lascia così, dai. E l'hai aumentato, va? Eh? L'hai aumentato? No, sono sempre così. Allora non gridare, lascialo così che è molto bella, perché se lo aumenti troppo va a strappare, capito? Quella posizione lì, a quanto ce l'hai? A 2? No, anche a 5. Ehi, anche a 4 lo puoi mettere. Così, va bene? Favoloso, molto bella, io ti sto ascoltando con K, è favolosa. Perché se aumenti troppo, rimbomba e va a strappare, invece così è perfetta, fortissima e perfetta, a 4 devi tenere, Tony. K, lascia così, lo lascio, dai. Andà bene, avanti già. Yeah. Non stavo guardando, devo guardare una cosa, e mi sono sentato poco, l'ho messo una volta. E capo, visto che tutti qui stanno spostando, giustamente ognuno c'ha le sue cose da fare, capito? Andrà bene, è così. Comunque già, aspettiamo un po', dai, tanto ce ne facciamo un giro di pesca, prima mi interessa operarmi, che ne ho le balle piene. Non mi posso neanche vedere io così. Lo so. Io ti capisco perché ci ho posto tutti i Ti ero operato che tu? Io mi sono operato. A me mi hanno messo la crutisi, mi hanno tagliato la parte tonda del femore, la testa del femore e mi hanno messo la crutisi. Manuele invece qualcosa di diverso da me. Tu devi vedere il disco, per me c'è anche due stabilizzatori e delle vertebre. Invece a me mi ha detto no, te è diverso, te un taglietto così, tolgo l'ernia e la sera se ne andò via. Fare quello per mia moglie, quanto tempo ci vuole prima che riesca a camminare, cazzo? C'è una cosa allucinante, dal 4 di dicembre. Deve aspettare che gli tolga le punti, poi forse vi fanno fare un po' di fisioterapia. Minchia, cazzo, non fichi, è disperata, cazzo. È disperata sono io, non mi posso muovere, sono qua. No, come appoggio il piede con le stelle, allucinante. Sono andato a visita, l'operazione è andata benissimo, bello dritto, tutto regolare, però forse perché c'è ancora il chiodo. Probabilmente è quello che la faccio. Già passa, Claudio, non è che c'è una cosa. Già passa, è integrale, e forse è qualcosa. Speriamo, dai. Scusate, io sono incasinato, sono sempre entro e esce, una stanza all'altra, devo preparare a cena, qui e là, è un casino, mi sto ascoltando tutta la sera, ma credetemi, sono incasinato forse. Prendi voi chiacchiere, me l'avrei fatto, dai. Comunque già sono qua, continuate, se ci siete dopo, ci sentiamo dopo, mi riprendi. capisco, perché tanto sono cose che faccio anch'io qua, perché tutto io mi faccio, quindi lo so, però